Pablo Picasso, raccontato da Gianluca Nicoletti. Una volta disse Picasso, poi non è certo se lo disse davvero, ma è diventata una frase celebre di Picasso, tale quale come la leggo in uno dei tanti quei sitarelli sotto la voce frasi celebri di Picasso, è: se dipingete, chiudete gli occhi e cantate. Fantastico, presuppone in sé che il contatto con l'arte è talmente viscerale, istantaneo, legato a fili che non corrispondono naturalmente alla perizia, alla maniera, al mestiere, che l'artista può chiudere gli occhi e dipingere cantando, può obbligare i suoi sensi in altre attività che non sono quelle di controllare continuamente il frutto del suo ingegno, l'esito del suo applicarsi all'opera. Proviamo a immaginare questa frase: se dipingete, chiudete gli occhi e cantate, a una qualsiasi attività professionale, visto che oggi la professione e il lavoro viene considerata la massima espressione realizzativa di un essere umano. Se fate il vostro lavoro, chiudete gli occhi e cantate, provate a farlo, vedrete che vi sarà impossibile. Chi chiude gli occhi lavorando, chi chiude gli occhi nei rapporti personali importantissimi e canta, in realtà viene preso per folle, o viene preso per persona che in quel momento è sotto effetto di sostanze psicotrope e quindi non attendibile. Quindi, se oggi volete essere felici, tenete bene gli occhi aperti e la bocca usatela non per cantare, ma per fare cose razionalmente utili e produttive. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.